It's been a long day for Sarah, and now that the meal is over, she's ready for bed. But before the final dialogue on the terrace, here's another set of new language. Ascolti l'italiano, l'inglese, di nuovo l'italiano, e poi ripeta. Il conto. The bill. Il conto. Pago. I pay. Pago. Con carta di credito. With a credit card. Con carta di credito. Mia ospite. My guest. Mia ospite. Here are those words and phrases again. Il conto. Mia ospite. Pago. Con carta di credito. Ed ora ascolti il dialogo.